Beh, dal nostro punto di vista l'obiettivo principale è scritto nel titolo di questa edizione del festival, ribadire che i cittadini ci sono e sono presenti. E vuol dire che si occupano delle politiche pubbliche, collaborano con le istituzioni tutte le volte che è possibile, a volte si oppongono a delle decisioni che ritengono sbagliate o a delle pratiche che ritengono sbagliate e soprattutto si prendono cura di tutto quello che ha a che fare con la tutela dei diritti e la cura dei beni comuni. In questi giorni si parlerà di tanti temi legati a questi ambiti, si parlerà per esempio nel nostro caso di scuola o di partecipazione dei cittadini nelle emergenze naturali o di potere femminile, di come le donne si sentono a volte quando sono nella società, nel lavoro, e a volte si sentono un po' al di sotto delle proprie possibilità, parleremo di sindrome dell'impostore, quindi tanti temi legati sia al ruolo che i cittadini hanno per il cambiamento della realtà e sia al potere che si devono essere consapevoli di esercitare già fin d'oggi presenti. Ecco, il PNRR sarà un tema fondamentale per questo Festival della Partecipazione, come lo affronterete? Noi abbiamo come Festival della Partecipazione cominciato a occuparci del PNRR fin da quando era solo un nome, uno slogan e non ancora delle decisioni, degli atti, delle riforme eccetera, per cui anche in questa edizione torneremo ad occuparcene perché pensiamo che proprio perché si tratta di un piano ambizioso per il nostro paese richieda un ruolo di coinvolgimento importante dei cittadini, delle comunità e delle associazioni di impegno civico, sia a livello nazionale per qualificare alcune decisioni in corso d'opera e soprattutto anche nei territori. Per questo stiamo lavorando molto per esempio per il monitoraggio, la formazione, l'analisi degli esiti che queste iniziative contenute nel piano vogliono provocare, speriamo positivamente, nella realtà. Grazie mille.